confesso che sono emozionata questa sera perché questo omaggio a Renzo è stato particolarmente commovente e gradito, e devo ringraziare Ada di aver scelto me per questa presentazione. Leggerò questo intervento perché il tempo è veramente poco e per non dilungarmi ho scelto di leggere il testo. Nel 1985 Sergio Anselmi, nel libro Insegnamenti rurali, case coloniche, economia del potere nella storia dell'agricoltura marchigiana, che vedete qui dietro le mie spalle, la copertina la vedete alle mie spalle, il volume è questo, faceva notare che sono state accertate non meno di 34 espressioni per indicare la dimora rurale nelle Marche tra X e XX secolo. E siccome la casa colonica si relaziona strettamente al potere, ciò dà il senso della varietà delle situazioni, delle tipologie, delle sedimentazioni architettoniche e culturali createsi nel tempo in questo angolo d'Italia, dove ai nomi hanno sempre corrisposto le cose, come è regola nelle culture contadine. Nel 1934 una indagine sulle case rurali aveva censito nelle Marche oltre 100.000 case coloniche, ognuna delle quali è un pezzo unico, personalizzato e modellato oltre che dall'opera di muratori, scalpellini, falegnami, fornaciari, anche dalle esigenze della famiglia colonica, che nella casa vive, cresce, lavora, trasforma e conserva i prodotti del potere. La casa colonica è la sede dell'azienda contadina. Forse è proprio questa unicità che trasuda quotidianità, sacrifici, ingegno, parsimonia, funzionalità, a rendere ogni casa colonica, anche se ormai abbandonata, fatiscente, diruta, sempre estremamente affascinante. Sicuramente ogni edificio costituisce un documento per ricostruire la storia economica, sociale e, per citare Fernand Braudel, anche la storia della civiltà materiale della nostra regione. Ancora agricola, oltre il 60%, appena 60 anni fa, e non lo dobbiamo dimenticare. Le foto di questa mostra prendono il via dal libro appena citato sugli insediamenti rurali, un volume costato 2 anni di intenso lavoro, progettato e diretto da Sergio Anselmi, che ha avuto il merito di mettere insieme i contributi scientifici di ben 27 collaboratori fra storiografi, geografi, agronomi, architetti, letterati, insomma un pionieristico ed illuminante esempio di ricerca multidisciplinare. L'esigenza di collegare fra loro i vari ambiti di studio sulla casa rurale, sottolineata già nel 1964 da Lucio Gambi, fu ripresa nel 1980 da Renato Comba, che, imputando a geografi e architetti l'errore di utilizzare categorie interpretative astoriche, avevano cristallizzato la casa rurale in uno spazio senza tempo, l'avevano appiattita e non si leggeva più niente della sua evoluzione. E quindi Renato Comba auspicava che gli studiosi di varie discipline confrontassero le ricerche, verificandone i metodi e i risultati. Un appello raccolto 2 anni dopo da proposte ricerche. nel seminario sulle dimore rurali che prelude a questo volume sugli insediamenti rurali. Arezzo Baci, che era anche autore di un saggio all'interno di questo volume sulla casa rurale, e a Gianluigi Mazzuffere si deve l'itinerario a colori, questo album fotografico dal quale sono state tratte le foto in mostra questa sera. L'uscita di questo libro, scriveva Sergio Anselmi nella prefazione, non sarebbe stata possibile senza la loro colta e appassionata collaborazione. L'itinerario fotografico, in realtà, rappresenta una vera e propria ricognizione, quasi a tappeto, del patrimonio edilizio rurale allora esistente nel territorio marchigiano, come si può vedere dalla cartina che è stata stampata qui in questo Deccan, dove sono stati sottolineati con la penna tutte le strade percorse per effettuare questo servizio fotografico. E fu un'opera titanica, oltre che un'avventura, spesso all'insegna dell'imprevisto, alla quale ebbi il privilegio di partecipare anch'io due o tre volte, fungendo da cicerone per le zone a me più familiari, cioè quelle del maceratese. Renzo, però, mi riferiva spesso anche sulle spedizioni alle quali non avevo preso parte e descrivendole con tanto entusiasmo e minuzia di particolari, da invogliarmi a volte a ripercorrere lo stesso itinerario per mio conto. Come quando, dopo avermi raccontato della scoperta fatta a Spelonga e nei villaggi agricolo-pastorali della montagna Ascolana, dei bufiri o verdesche, cioè terrazze in legno per l'essiccazione dei prodotti, che potete vedere sono esposte in queste foto, non mi ricordo più a quale altezza, comunque la didascalia indica proprio bufiri o verdesca, queste terrazze per l'essiccazione dei prodotti e degli architravi in arenaria cinquecenteschi, ingenuamente scolpiti con pecorelle, eccetera, e mi entusiasmò talmente che voglio andare a vederli con la mia famiglia. Ma arrivato sul posto ritrovai quelle case con le verdesche, gli architravi, ma comunque mi rammaricai moltissimo per non essere stata presente quando li aveva individuati, perché i luoghi, pur bellissimi, mi sembrarono un po' tristi e abbandonati, mentre lui, Renzo, aveva la capacità di ridare l'anima al contesto che descriveva. Renzo, con i suoi quaderni di appunti, ne vedete una pagina riprodotta in questo cartellone, e Gianluigi, armato di macchine fotografiche, per mesi e mesi esplorarono sistematicamente le quattro province marchigiane, percorrendo strade bianche e polverose di campagna alla ricerca di case colonie. Qualche volta Gianluigi portava con sé il figlio, che allora aveva 5-6 anni, e questo bambinetto ascoltava con grande attenzione i nostri discorsi, ci faceva sorridere quando, imitando Renzo, disegnava sul suo quadernino con aria compassata ciò che lo aveva colpito, come quel misterioso oggetto che poi ci rivelò essere una trappola per topi, che mi ha ricordato Gianluigi pochi giorni fa. E ricordo quelle scampagnate con grande nostalgia, ma soprattutto con tanta gratitudine, perché ebbi modo di osservare da vicino il professor Paci e soprattutto di capire quanto grande fosse il suo interesse per il mondo agricolo, che poi equivale alla natura nel complesso. Renzo amava la campagna, sia nel suo aspetto esteriore, cioè quel paesaggio agrario studiato e descritto in tanti suoi lavori, ma soprattutto era affascinato dalla civiltà degli abitanti, dalla sapienza che uomini e donne esprimevano attraverso il lavoro, e ne osservava i gesti, ne sollecitava i racconti, era sempre attentissimo, li ascoltava con grande attenzione. Rimaneva estasiato di fronte ai volti di contadini scolpiti con quell'insieme di rughe che sembravano scolpite dalla fatica del sole, che poi voleva che fossero fotografati, e ne abbiamo un esempio nell'ultima foto qua giù, nella foto di due contadini. E foto che, volti che oggi rappresentano documenti di quella che Anselmi amava definire archeologia dei visi. Visi che oggi non troviamo più, e ce ne rendiamo conto quando guardiamo, vengono rifatti dei film d'epoca e no, gli attori non sono più credibili perché hanno un'altra fisionomia, un'altra struttura fisica, perché ormai stiamo parlando di archeologia dei visi e dei corpi. Gianluigi e Renzo erano perfettamente consapevoli che stavano documentando gli ultimi brandelli del bel paesaggio mezzadrile sfuggiti alla meccanizzazione e i superstiti di una umanità in via di estinzione, ultime testimonianze di una storia di lunghissimo periodo ormai conclusa. Non credo di esagerare se ritengo che in alcune foto traspaia lo struggimento di chissà che non rivedrà più quella casa, quella persona, quella scena, come nella foto, nella serie di foto sull'aratura con i buoi, che non sono esposte ma che qui nel libro sono state messe in abbondanza. E mi ricordo, era una soleggiata giornata di settembre-ottobre, faceva molto caldo comunque, quando a Villa Potenza, in prossimità dei ruderi di Elvia Recina, un luogo suggestivo già di per sé, scorgemmo di lontano un contadino che arava il campo lungo la strada con un paio di vacche di razza marchigiana aggiogate al perticaro metallico. Il perticaro metallico che però riproduceva esattamente le forme dell'aratro ligneo medievale. Le vacche erano dotate di una museruola di vimini per impedire che danneggiassero le viti quando passavano accanto ai filari. Gianluigi inchiodò l'arto e scendemmo per immortalare quella suggestiva scena che si ripeteva quasi immutata da secoli, ma che probabilmente non avremmo più visto come manifestato. E ce lo confermò il contadino quando ci disse che, pur disponendo di un buon parco macchine, di trattori, eccetera, però usava ancora i bovini per, scrive Renzo, fedeltà alla tradizione. Renzo si era appuntato questa frase, ma che avrebbe fra non molto dismesso le bestie e chiuso la stalla perché non ce la faceva più, era vecchio e figli, continuava. 5-6 mila gli scatti, mi diceva Gianluigi, non solo alle case, ma al paesaggio, alle persone, agli animali, agli oggetti, pagine e pagine di appunti e schizzi in questi quadernini che sono stati ritrovati di Renzo, e per fissare un particolare, un nome, una riflessione, un'idea da sviluppare e da approfondire. Ogni casa rurale, infatti, come Renzo precisa nel suo saggio inserito in questo volume, oltre che espressione dei rapporti relativi alla struttura sociale, è il risultato di fattori legati all'ambiente, alle tradizioni costruttive, ai materiali disponibili nella zona, ai costi sostenibili, alla riutilizzazione con funzioni diverse nel corso dei secoli di costruzioni già esistenti, a necessità legate alla peculiarità del territorio o delle coltivazioni. Dunque, per interpretare, per esempio, un'antica casa rurale che oggi si presenta a noi in una data forma, occorre conoscere la sua storia attraverso non soltanto la lettura architettonica, che rimarrebbe astorica, ma anche attraverso l'esplorazione di fonti scritte, caprei, catasti, pergamene, contratti orari, fonti iconografiche, registri notarili, registri contabili, come pure ci insegna una disciplina assai recente che ho citato prima, cioè la storia della cultura materiale, cara agli storici delle annal, lo studio degli attrezzi, degli oggetti, degli ambienti, delle tradizioni ci può aiutare a restituire un'immagine completa, articolata, credibile a tutto tondo, potremmo dire, delle dimore rurali che sono diventate tali a come le vediamo ora nel corso del tempo, per l'uso che la famiglia colonica ne ha fatto, modificandole, ampliandole, adeguandole alle esigenze lavorative e costruendo nuove stanze man mano che la famiglia cresceva, cioè costruendo per esempio i rettacchi, parti nuove attaccate alla vecchia casa che assumeva così una diversa conformazione, fino in alcuni casi a snaturare del tutto l'impianto originario. Questo termine dialettale, rettacchi, cioè parti attaccate alla casa, era piaciuta tantissimo a Renzo quando l'aveva sentita usare da una Vergara che si era affacciata alla finestra, alla loggetta della scala di una casa di San Claudio Alchienti, di proprietà dell'arcivescovo di Fermo, una bella donna anziana vestita di nero con il fazzoletto in testa, come usavano le contadine, le contadine anziane ancora usano portare il fazzoletto in testa. E Renzo si era affacciata in mezzo a dei, qui c'è la foto, a dei vasi di garofano, cioè coltivati nei barattoli di latta del tonno, della conserva, e Renzo aveva chiesto: signora, quelle stanze quando sono state costruite? Ah, quali? I rettacchi? Fece la vecchia. Renzo rimase fulminato. Come hai detto, signora? Rettacchi! Ah, e da lì nacque questa passione per questo termine che poi dopo lui usava sempre, perché era pregnante come parola, quello che dicevamo prima, ogni parola aveva un corrispettivo concreto. Ritornando alle 100.000 case poderali, Facile definisce il risultato di una sedimentazione di investimenti cittadini, di denaro cittadino e di lavoro contadino, protrattasi per 5 secoli. Difatti, per rintracciare i primi esempi di costruzioni rurali bisogna retrocedere alla seconda metà del 1400, quando, grazie anche ad una massiccia immigrazione di slavi ed albanesi impiegati nei più duri lavori di risodamento del terreno, storia si ripete. Dopo una lunga opera di accorpamento delle terre nella quale i cittadini investono i capitali ottenuti con i commerci, le libere professioni, eccetera, in seguito ad una complessa fase di aggiustamenti e di rielaborazione di preesistenti forme contrattuali, il lavoreccio, l'ad optimum, eccetera, eccetera, si diffonde la mezzadria, con la formazione di poderi chiamate al tempo possessioni, altro nome bellissimo e pregnante, erano i possessi che i cittadini avevano nelle campagne, e si formano queste possessioni su ognuna delle quali viene costruita la casa colonica. Perché non c'è podere o possessione senza casa colonica? Perché i contadini che prima della diffusione della mezzadria abitavano all'interno delle mura cittadine o in piccoli borghi rurali e ogni mattina si recavano a coltivare la terra, quello che avviene un po' in Italia meridionale, ora si insediano sul podere, stabilmente sul podere, perché le terre, il podere deve essere lavorato come stabilito minuziosamente nei statuti cittadini e nei contratti agrari che vengono stipulati di fronte al notaio, e devono essere anche non solo lavorati ma anche presidiati giornalmente. Quindi il contadino e la sua famiglia deve risiedere sul podere, e ogni podere ha bisogno della sua casa. I primi esempi di costruzione rurale, infatti, risalgono al secolo XV e hanno la tipologia a torre. Sono in pratica una torre. Tipica questa torre delle antiche tombe, cioè grandi aziende signorili, e delle grance, cioè fattorie di proprietà monastica. Siamo infatti ancora in un'epoca di insicurezza politica e di rinselvatichimento delle campagne dopo la peste trecentesca, quando le terre coltivate rappresentavano, come diceva Anselmi, isole in un mare di selve, cioè erano più le terre selvate che quelle coltivate. E la tipologia a torre quindi era necessaria, era indispensabile per la difesa dei contadini che lavoravano quelle terre e dei prodotti che venivano ammassati all'interno della torre. Conclusa questa fase pionieristica dell'appoderamento, venute meno quindi le istanze difensive e la progressiva ricolonizzazione delle terre e la maggiore stabilità politica, la torre, laddove esiste, permane. Nulla si è buttato via in campagna, si riutilizza, permane, ma cambia destinazione d'uso. Non avendo più funzione difensiva, diventa l'ultimo piano, viene adibito all'allevamento dei colombi. Colombi che erano preziosissimi sia per la carne che per il concime che fornivano, tanto da essere tutelati ancora una volta dagli statuti comunali che punivano severamente ladri e malintenzionati. Gli altri piani della torre vengono adibiti ad abitazione, a stalla, magazzino, ricordo per gli attrezzi. Con il tempo altri corpi vengono addossati ai lati della torre, mentre anche nelle case di nuova costruzione, che continuano ad essere costruite sui poderi, spesso è presente questo, un elemento a torre, una torretta, a ricordo della derivazione signorile e urbana. Non ci dimentichiamo che le città, San Gimignano è l'esempio forse più conosciuto, erano piene di torri. Ogni palazzo signorile aveva la sua torre e più la famiglia era importante, più la, cioè viceversa, più la torre era alta, più denotava l'importanza della famiglia. Tra 5 e 600 si diffonde pertanto nelle campagne la tipologia a palombara, cioè dalla questa torre che ormai è adibita ad allevamento dei palombi, come attestano catasti cabrei, nonché gli ancora oggi frequenti toponimi. Le nostre campagne sono piene di toponimi e di cognomi. Il mio, per esempio, che non deriva dai palombari marini, come qualcuno mi voleva spiegare, ma da questa vecchia antica derivazione. Intanto la mezzadria, ormai diffusa dalla costa alla media collina, ha trasformato il paesaggio che a Montaigne, in viaggio verso Loreto nel 1581, già era apparso fortemente antropizzato e coltivato come un giardino dove, scrive, non c'è un pollice di terra inutile. Già nel 1581 abbiamo descritto da Montaigne questo paesaggio mezzadino. Renzo Paci preferiva definire il paesaggio marchigiano umanizzato, richiamandosi al paesaggio artificiato di Giacomo Leopardi. Questa definizione è stata coniata da Giacomo Leopardi, il paesaggio artificiato, per sottolineare che esso era frutto non della natura, ma del lavoro dell'uomo. E sarà bene ricordare che anche grazie agli scritti di Anselmi e Paci, se oggi finalmente, anche se con il perdonabile ritardo, il paesaggio agrario è stato riconosciuto un bene culturale da tutelare, quello che ci è rimasto. Per quanto riguarda le case coloniche, è nel corso del Seicento che si definì la loro tipologia e si infittì la loro presenza. Nei poderi di piccole dimensioni si diffondono le case affiancate con planche, ossia tavole di legno inserite nella muratura, poco costose, ma dai tipici caratteri della casa mezzadrile a pianta rettangolare, a due piani, sotto le stalle, i magazzini sopra le stanze di abitazione, e per la prima volta la scala esterna. Sui poderi più grandi, le maggiori capacità di investimento dei proprietari per spesso con archi, portici, logge esterne. Nel 600, ma soprattutto nel 700, grazie alle rendite crescenti derivanti dalla estesa cerealicoltura e dalla vivace esportazione del grano, mentre in città si innalzano i palazzi nobiliari, in campagna sorgono numerose ville padronali per la villeggiatura estiva che coincideva con la stagione dei rapporti e della loro spartizione. I nobili non andavano al mare all'epoca, ma andavano a villeggiare in campagna nelle loro proprietà. In pianura, in media collina, molte delle vecchie case coloniche sono sostituite da grandi edifici in mattoni a vista, alternato con blocchi di selce o arenaria o calcare bianco o rosato secondo la disponibilità del luogo. In qualche caso queste modifiche e integrazioni dell'edificio primitivo sono leggibili anche oggi, a volte documentate da piccole lapidi murate negli edifici. Vedete Renzo lì che la sta bagnando per leggerla quella piccola lapide, e a ricordo di restauri e di ristrutturazioni effettuate. In pratica succede questo: all'antica casa torre palombara, risalente al XV secolo, vengono via via aggiunti nuovi corpi abitativi, la scala esterna, i magazzini adibiti a varie funzioni, e solo nelle zone di montagna meno accessibili e progressivamente abbandonate dopo la crisi di fine Cinquecento sopravvivono rare case, torri e palombare pressoché intatte. Ma una ricognizione oggi, dopo 20 anni, forse ci darebbe qualche triste sorpresa. Nel corso dell'Ottocento, per l'esigenza di far fronte al crescente aumento demografico, mantenendo però sempre il giusto rapporto fra terra e braccia, si procede all'ampliamento di case preesistenti o alla suddivisione dei poderi più grandi con la costruzione di nuove case. Ma quando l'equilibrio risulterà compromesso, verrà espulso dal sistema mezzadrile un numero crescente di contadini che andranno a formare un nuovo ceto sociale, quello dei braccianti, o come venivano chiamati nelle Marche, i casanolanti, cioè uomini senza terra, senza casa e spesso anche senza lavoro stabile, e pertanto malvisti sia dai proprietari che dai mezzadri, che li consideravano ladri di campagna. Proprio fra i casanolanti si diffonde una particolare abitazione, la casa di terra, terra cruda, che per il materiale usato, cioè terra cruda impastata con paglia e acqua, risulta la più economica. In realtà le case in terra cruda, che si chiamavano atterrate o pagliare, erano di antichissima tradizione e ampia diffusione anche nelle Marche, sicuramente presenti nel Medioevo, ma coesistite ad altri tipi di abitazione anche nelle epoche successive, sia come dimore temporanee, sia come abitazioni dei contadini più poveri, salariati o enfiteuti di piccoli frustoli di, terreno o di piccolissimi proprietari. La crescita demografica e l'impoverimento progressivo dei ceti rurali determineranno nella seconda metà dell'Ottocento il sorgere di veri e propri ghetti rurali, segnalati anche nell'inchiesta Iacini, alcuni dei quali ancora esistenti, come Borgo Ficana di Macerata, fortunatamente ora tutelati e restaurati anche grazie alla sensibilizzazione promossa dal professor Paci, che fu tra i primi all'inizio degli anni Ottanta ad interessarsi delle case di terra, che considerava una preziosa testimonianza delle tristi condizioni di vita di una frangia non marginale della popolazione marchigiana. E proprio qui, la scorsa estate, a giugno se non erro, Renzo era venuto a presentare il volume di Gianni Volpe sulle case a Martone. L'Ottocento vede anche la diffusione di una nuova tipologia edilizia nelle campagne dello Jesino, ma anche di Osimo e Loreto, ne trovate vari esempi. La casa bigattiera, facilmente riconoscibile per una altana centrale, e vedete ancora qui chiamo la torre signorile, che sembra chiudere il cerchio aperto 4 secoli prima dalle palombare. Un'altana che serviva ad evitare l'allevamento dei bigatti, da cui il nome bigattiere, bigatti, cioè i bacchi da seta, un'attività assai fiorente nella prima metà del secolo. Tra 8 e 900 le maggiori aziende agrarie innovano le tecniche culturali e le case coloniche, come quella di Vaccarile di Ostra, che è l'ultima foto che chiude la mostra, costruita nei primi anni 30 dal conte Luigi Ferraris, secondo una tipologia completamente nuova. nuova. Il piano terra è occupato in gran parte della stalla, il primo piano, abitato dalla famiglia Colonica, ha un ampio terrazzo rientrante, ignoto la tradizione marchigiana, e dal quale una scala conduce alla biancheria. Ma questa foto, scattata appena dopo 30 anni dal crollo del sistema Mezzadrille, è emblematica per un altro motivo. Nel 1929, cioè all'epoca della costruzione della casa, i seminativi occupavano il 70% della superficie agraria, di cui il 43% erano ancora vitati e arborati, cioè esisteva ancora il bel paesaggio mezzadrille, che possiamo ammirare ormai solo nelle foto e nelle cartoline d'epoca. Ma quel paesaggio rimarrà ancora per poco. Gli anni 50, infatti, porteranno radicali cambiamenti con la fine del contratto mezzadrille, la fuga dalle campagne, l'abbandono di molte case rurali, la trasformazione delle altre in fabbrichette. Dalla stalla al laboratorio, come recita il significativo titolo di un articolo di Patrizia Santucci. Ma l'alterazione più macroscopica è quella introdotta nel paesaggio con l'ingresso della meccanizzazione, che ha determinato l'esigenza di espiantare gli alberi che nel corso dei secoli avevano vestito, e questo è il termine che trova scritto nei catasti, terra vestita, avevano vestito il podere di filoni, forignate, alberate, olivi, gelsi e querce camporini. Per permettere la coltura estensiva, vengono espiantati, per permettere la coltura estensiva di cereali associata a sorgo, mais, barbabietola e girasole. Negli anni Ottanta si era già compiuta, quindi, la distruzione di un patrimonio costruito in 5 secoli, documentata dalle splendide fotografie di Mario Giacomelli esposte in questo museo di Mezzadrille. La foto, quella foto lì, ritrae appunto lo sconvolgente effetto della steppa cereale che ha cancellato l'elemento caratterizzante del paesaggio umanizzato. La casa giace abbandonata in cima ad una collina ormai nuda. Dopo 5 secoli, e concludo, la Mezzadria ha chiuso il proprio ciclo vitale, come scriveva Renzo in un articolo intitolato Nascita, sviluppo e morte della Mezzadria. Però nessun rimpianto per quel mondo. Dobbiamo essere chiari, perché troppo spesso la nostalgia deforma i ricordi e può farci credere e può farci cadere in gravi errori di anacronismo storico, un errore che lo storico non dovrebbe mai fare. Quando pensiamo che nei tempi passati si stava meglio, i cibi erano più buoni e genuini, la vita più tranquilla e sana, c'era più rispetto ed onestà, dovremmo invece ricordare che la maggior parte dei nostri nonni e bisnonni era sottoposto a condizioni di lavoro quasi disumane. Spesso soffriva la fame, perché il pane quotidiano era prerogativa di pochi. La sottomissione regolava i rapporti familiari e sociali. La metà o quasi dei figli moriva da bambino e la speranza di vita era circa metà della nostra. Allora, nessun rimpianto, o quasi. Certo è che dopo la morte della Mezzadria, purtroppo stiamo assistendo anche alla morte della natura, non più presidiata dalla quotidiana ed attenta opera dei coloni che con immani sacrifici hanno tenuto sotto controllo il territorio, regolamentato il corso delle acque, scavato fossi e piantato alberi. Frane, alluvioni, incendi, inquinamento, desertificazione, questi sono i nuovi problemi con i quali dobbiamo confrontarci. Questo l'incerto futuro che Anselmi e Paci avevano già annunciato 30 anni fa.